Questa è stata la settimana in cui è letteralmente esploso il mondo legato al riconoscimento facciale. Ci sono state 3 aziende importantissime che hanno annunciato di bloccare e sospendere la vendita dei loro prodotti alle forze dell'ordine, chiamando però il governo a fornire una legge, una sorta di regolamentazione per il settore. Ebbene sì, in questa settimana IBM, Amazon e Microsoft hanno annunciato, in quest'ordine, di sospendere in diverse forme la vendita o l'utilizzo delle proprie tecnologie per il riconoscimento facciale, soprattutto nei confronti delle forze dell'ordine. Ma andiamo in ordine. L'8 giugno IBM ha inviato questa lettera al congresso in cui si parla di justice and racial equity, di tecnologia responsible, di skills learning relativo ad un futuro in cui appunto la tecnologia è sempre più pervasiva nelle nostre vite. Nella lettera in particolare IBM fa riferimento al fatto per cui si tira fuori letteralmente dal mercato della tecnologia di riconoscimento facciale, soprattutto se questa viene utilizzata per una sorveglianza di massa, per la violazione dei diritti umani, per effettuare un racial profiling e quindi andare proprio a colpire quelle etnie della popolazione che sono le minoranze, quindi più esposte delle violazioni. In questo caso quindi la IBM invita ad aprire un dialogo con il governo e ad attendere che sia adottata una sorta di legge, una regolamentazione stringente a livello federale, appunto per l'impiego e l'utilizzo del riconoscimento facciale. Mercoledì Amazon annuncia la moratoria di un anno sull'impiego della propria tecnologia di riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine. La sua tecnologia, Recognition, era letteralmente una merda per quanto riguarda la capacità di riconoscere persone dal volto che non fosse bianco. Questo era stato dimostrato da studi fatti da parte della ricercatrice Joy Bulamwini. Questi sono stati fatti addirittura 3 anni fa, da quegli studi a partire dall'associazione Algorithmic Justice League, che si occupa appunto di analizzare, colpire, cercare di bloccare gli effetti indesiderati degli algoritmi di riconoscimento facciale e di riconoscimento biometrico sulle nostre vite. Già la comunicazione di Amazon però è leggermente diversa, perché in realtà si sospende la parte relativa alle forze dell'ordine. Non è chiaro però se questo si applica anche a livello federale, quindi se l'FBI ad esempio potrà continuare ad utilizzare questo tipo di tecnologia, ma soprattutto comunica che lascia disponibile la propria tecnologia a delle organizzazioni che a volte collaborano con le forze dell'ordine. Per esempio si parla dell'International Center for Missing and Exploited Children, quindi che si occupa appunto di andare ad individuare bambini scomparsi. Ieri il terzo gigante del settore che si occupa del riconoscimento facciale, Microsoft, annuncia che non venderà più il proprio software di riconoscimento facciale alla polizia finché non vi sarà una legge chiara e definita che regoli l'utilizzo, l'impiego di questa tecnologia. Tutte e tre queste aziende sembrano invitare ad un dialogo, come voler ricominciare da capo nel discorso riguardo il riconoscimento facciale. Quali sono infatti le questioni? Come ricordavo prima, Joy Bulamwini già addirittura più di 3 anni fa riconosceva che questi algoritmi hanno dei problemi, discriminano, non essendo addestrati a riconoscere volti di etnie diverse, commettono errori quando ci si trova di fronte a volti che non sono quelli classici, bianchi, caucasici. Infatti Joy aveva fatto un esperimento in cui era stato costretto, per farsi riconoscere questi algoritmi di riconoscimento facciale, ad indossare una maschera bianca. Joy è una ricercatrice, ingegnere di colore, e aveva denunciato questo impiego di questa tecnologia. La stessa CLU, un'associazione che si occupa di diritti americani, aveva utilizzato il software Recognition per vedere i membri del Congresso americano se venivano riconosciuti correttamente o meno dall'algoritmo, e anche lì erano emersi delle gravi falle da parte di questo sistema di riconoscimento facciale. Cosa succede quindi? Ci ritroviamo di fronte a queste 3 aziende che sembrano voler riportare il dibattito che va avanti da anni sul riconoscimento facciale, sulla pericolosità del riconoscimento facciale, sulla sua invasività, alla casella zero. E questo è molto pericoloso. Si vuole letteralmente dare un colpo di spugna a tutte le critiche, i discorsi, i dibattiti che sono stati fatti in questi anni e spingere per una regolamentazione come se fosse semplicemente una soluzione neutrale. E questo sappiamo benissimo che non lo è. Abbiamo infatti un caso, quello di Microsoft, la quale nello stato di Washington ha letteralmente scritto il testo di una legge che regola l'utilizzo del riconoscimento facciale. Infatti uno dei senatori era un dipendente di Microsoft. Questo cosa vuol dire? Che Il fatto di vedere tre aziende tirarsi indietro dal mercato del riconoscimento facciale e invocare l'intervento di una regolazione da parte del governo non deve farci stare tranquilli. Questo perché le vie del lobbying sono infinite, quindi dobbiamo riconoscere che questo tipo di tecnologie non sono naturalmente inevitabili, quindi verranno adottate in ogni modo, ma sono molto spesso frutto di spinte e continui dialoghi, dibattiti da parte delle aziende stesse che avvicinano i politici, scrivono, come abbiamo visto nel caso di Microsoft, le leggi stesse e cercano quindi di crearsi questa storia, questa narrazione secondo la quale il riconoscimento facciale è effettivamente inevitabile. Quindi dobbiamo stare assolutamente attenti. Sulla scia di queste comunicazioni, infatti, diverse associazioni sono già fatte sentire, una di queste, ad esempio Amnesty, che appunto in questa settimana ha invitato, ha emesso un comunicato in cui richiede che il riconoscimento facciale, il riconoscimento biometrico utilizzato per la sorveglianza di massa sia messo al bando. Lo stesso aveva già fatto EDRI un mese fa circa, pubblicando un position paper, un'analisi dettagliata di quali sono le problematiche del trattamento biometrico e quindi della sorveglianza biometrica, perché ricordiamo il nostro volto nel riconoscimento facciale viene trasformato in una stringa di codici univoci che sono ricollegati alla nostra identità. Non possiamo cambiare il nostro volto. Girare nella città, protestare come sta avvenendo ora negli Stati Uniti, diventerebbe qualcosa di letteralmente impossibile. Tutto questo però cozza in parte anche con quanto fatto dalla Commissione europea. La Commissione europea ha pubblicato dei white paper sull'intelligenza artificiale, tra questi c'erano anche l'aspetto del riconoscimento facciale, e ha aperto un dibattito pubblico richiedendo contributi da parte di chiunque, quindi da aziende, da società, società civile. Nel white paper, nelle copie che erano circolate prima, si parlava di una moratoria per il riconoscimento facciale, in attesa di definire le regole. In realtà la Commissione europea poi però, una volta che ha pubblicato la versione ufficiale del documento, ha rimosso il riferimento alla moratoria e ha deciso di adottare un approccio più lieve. Questo è un ulteriore motivo di preoccupazione, perché sono anni che si parla dei rischi e dei problemi del riconoscimento facciale. Trovarci nuovamente a dibattere sulle modalità e le tipologie di regolamentazioni che si occupano sia di definire in quale ambito utilizzare il riconoscimento facciale, sia di definire quali devono essere le prerogative di questi sistemi, quali devono essere i controlli di qualità che vadano fatti su questi algoritmi, che tipo di problematiche sono legate ai falsi positivi e soprattutto che tipo di meccanismi di accountability e di supervisione e di monitoraggio di questi strumenti devono essere messi in piedi. In questa situazione, con i tre colossi, IBM, Amazon e Microsoft, che si allineano nella stessa settimana a chiedere maggiori regolamentazioni, sinceramente, non c'è da dormire tranquilli.